dress music, musician are the most cool in the world. Dress music. Quanto sei figa con questo pezzo di Chanel, vero o no, oppure made in Cina? Quanto mi piglia da impazzire la tua mutandina, mi servirà un flacone intero della mia medicina. Quanto sei figa con la tua macchina easy chic, quanti tipi a fare il giro su sta jeep. Quanto vorrei vederti domattina a colazione prima del lavoro, non ci sto dentro, sei la mia vera medicina, vedo il doppio pure la mia vicina. Quanto sei figa col tuo abito di Prada, diavolessa calda, mezza in carriera. La carriera non fa una spada, ma con la tua fai perdere la testa a tutta la strada. Sei figa quanto la mia macchina, come lei è qualcosa che non si compra. Forse il tuo fiore che vale più di qualche firma, come lei sembri venuta da Venere, dolce caramella la fragola. Quanto sei figa pure col tuo pigiama Gucci, sembra che ci dormino con te pure torno in due bambolina. Quanto sei figa, mi vorrei fare una riga di te, sei la mia nuova droga signorina. Quanto sei tira pure con la bilancia imperfetta, quanto vorrei prenderti gli sparte, dirti che sei un pezzo d'arte, manco una vena nel botticello in provetta. Il mio esperimento alchemico è darti un bacio, curarmi dalla musica, KIV, farlo in fretta. Quanto sei figa con sto pezzo di Chanel, vero o no, pure made in Cina. Quanto mi piglia da impazzire la tua mutandina, mi servirà un flacone intero della mia medicina. Quanto sei figa con la tua macchina, easy, quante tipe a fare il giro su starci. Quanto vorrei vederti domattina a colazione prima del lavoro, non ci sto dentro, sei la mia vera medicina, vedo il doppio pure la mia vicina. Quanto sei figa col tuo abito di Prada, diavolezza mezza calda in carriera. La carriera non fa una spada, ma con la tua fai perdere la testa tutta la strada. Sei figa quanto la mia macchina, come lei hai qualcosa che non si compra. Forse il tuo fiore che vale più di qualche firma, come lei sembra venuta da Venere, dolce caramella la fragola. Quanto sei figa, ma quanto sei figa, oh.